Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un saluto da Francesco Galante, secondo appuntamento per questa settimana con l'Adico di Mestre, quindi saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo adesso di quelle che possono essere delle amare sorprese per gli automobilisti, perché purtroppo cambiano le regole in corso in certi momenti, in certe città, e ce ne parli tu, Carlo, su una questione che è capitata a Mestre. Sì, in questo caso, Francesco, parliamo proprio di una situazione capitata a Mestre, perché come al solito l'Adico, purtroppo, devo dire, si trova sempre in prima linea a dover può contrastare quelle che sono delle scelte politiche che vanno a creare confusione al codice della strada e alla viabilità. E in particolar modo parliamo di Mestre proprio perché la nuova giunta è andata a modificare quelle che erano delle zone ZTL che impedivano il libero accesso alle macchine, che non, persone che non erano residenti, e proprio sotto Natale è capitato un sacco di persone che si volgono a noi con un sacco di merda. Praticamente c'era una zona che normalmente era a traffico limitato, mi sembra di capire, e in alcune zone è stato tolto la ZTL perché di solito si fa così, insomma, durante il periodo delle feste, per permettere alle persone di poter accedere più facilmente ai negozi del centro, no? In alcuni casi è stata tolta questa ZTL e in altri no? Allora, questa cosa che hai detto è giusta, ma bisogna amplificarla, nel senso che il Comune di Venezia ha deciso nel weekend di liberalizzare zone ZTL, poi conseguentemente ne hanno liberalizzate solo alcune rispetto a tutte, hanno utilizzato dei sacchetti di immondizia nero giusto per coprire il cartello di divieto, e molte persone, soprattutto persone che abitano a Mestre, ma anche tanti da fuori, che erano convinti che sabato e domenica ci fosse la libera circolazione, si sono trovati la mala sorpresa di averne collezionate anche benzine. Conseguentemente noi abbiamo detto, abbiamo denominato l'iniziativa proprio da dilettante allo sbaraglio, puntando il dito sul fatto che questa non è stata un'iniziativa ma una strategia volta a colpire di nuovo gli automobilisti. E quindi come Adico ci ritroviamo di nuovo a dover parlare di multe e di situazioni insostenibili per il cittadino, le difficoltà che ha una città come me, come Padova, Treviso, qualsiasi altra città, una diversa, di accesso ai centri storici. Sì, infatti quando insomma si cambiano le regole del gioco, mi viene da dire, bisogna che tutti ne siano ampiamente informati e bisogna dare il tempo alle persone di recepire le modifiche, no? Già ricordo per esempio che quando sono stati messi gli autovelox in tangenziale a Padova, per mesi gli autovelox hanno funzionato, ma non arrivavano le multe a casa, ma arrivavano delle segnalazioni. Poi dopo qualche mese, insomma, le multe vere e proprie sono arrivate. Sì, e poi io anche aggiungo, quando accadono queste cose bisognerebbe anche probabilmente utilizzare i vigili per fare informazione, non per fare solamente gli esattori del fisco. Non è possibile che un comune ogni volta che si trova o un periodo dell'anno o un assessore nuovo o una nuova giunta eccetera vadano sempre a modificare quelle che sono delle situazioni, e i numeri poi sono impietosi su questa cosa. Chiaramente noi contestiamo appunto questa iniziativa, non è stata un'iniziativa secondo me lodevole, perché come detto crea confusione, quando si crea confusione si creano incomprensioni, soprattutto riteniamo giusto che o queste zone ci sono o non ci sono. Decidere di esserci a macchia di leopardo non è accettabile, che un automobilista ad ogni cartello si debba fermare, leggere, oppure pensare che dove c'è un sacchetto di immondizie nere che copre un cartello si può passare, dove non c'è non si passa eccetera. Non è questo il tipo di attività che va a salvaguardare gli interessi, insomma, dei cittadini e di chi vuole venire in città magari anche durante il periodo di Natale a fare qualche compra. Ecco, infatti questa è una paura che io da padovano e da automobilista vivo, il pensare di andare in un'altra città che non conosco bene, dove non conosco bene le strade, e magari trovarmi in un posto dove non mi sono reso conto di entrare su una ZTL, perché questo può capitare tranquillamente, nell'essere concentrati nel guidare, di non vedere proprio tutti i cartelli che magari sono anche messi proprio in posizioni non sempre così visibili, certe volte rinuncio ad andare in un posto e vado in treno, piuttosto non vado. Sì, così anch'io la penso come te. Poi c'è l'aspetto, purtroppo, da dire, che i cibi si svuotano, i negozi vanno in crisi, se la Cina si abbassano, i luoghi storici diventano sempre più luoghi di desertificazione, e tutti vanno su questi centri commerciali dove la gente arriva, parcheggia, non paga nessun tassello o nessun balzello e si trova sicuro da queste male sorprese. Pensiamo che in questo periodo di difficoltà dobbiamo smettere di far bilancio rovinando le famiglie, ma cominciando a farlo in maniera intelligente, ottimizzando le risorse e pensando nelle abilità anche a misura di città. Ecco, leggevo che come Adico consigliate a chi ha preso tante multe, insomma, di rivolgersi a voi per avere un aiuto, anche perché se uno prende una multa una volta, vabbè, lì spiegare che non l'ha fatto apposta non è così semplice, ma se uno ne ha prese tante in pochi giorni, vuol dire che o è uno che si vuol far del male, economicamente parlando, o proprio c'è un difetto di segnalazione e di comunicazione, insomma. Certamente chi ne ha prese tante ha il motivo in più di dimostrare la sua buona fede e il fatto che la confusione ha recato danno. La seconda cosa, chiaramente, per poter fare un ricorso davanti al giudice di pace bisogna fare in modo che, insomma, questo ricorso sia conveniente. Per farlo conveniente pensiamo sempre che chi ne ha presa uno o due gli conviene pagare beneficiando del sconto dei 5 giorni, chi ne ha prese tre valutare la possibilità di un ricorso. Ad oggi Radico ha grande esperienza di ricorso, abbiamo vinto molte battaglie via Colombo, ricordiamo l'ultima, ma come in altri casi del ZTL quando c'erano i tabelloni luminosi nel 2011, ricordiamo gli autovelox in via Olanda che sono stati definiti incostituzionali per come sono stati utilizzati, il tipo di strada che galleggiava, ricordiamo, insomma, tante iniziative che, insomma, siamo sempre riusciti a portare avanti e a promuovere. Certamente preciso ai spettatori che l'Adico non si occupa di salvaguardare chi ha fatto il bandito in auto o chi si ha fatto un po' il furbasso, ma ricordiamo che sono tutte persone normali o studenti che andavano a scuola o persone o anziani che andavano a trovare i propri parenti o accudire i nipoti o i figli, insomma, certo. Alcuni casi veramente sociali. Allora, associazionedifesaconsumatori.it è il vostro sito. Io ti ringrazio, Carlo, per essere stato con noi. L'appuntamento è per lunedì prossimo. Ok, grazie a te, Francesco, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.